tavolo della giornata. E abbiamo qui con noi Carlo Afrediani, questa è la presentazione del suo ultimo libro, che è Guerra di Rete. Carola è una giornalista, scrittrice, ha scritto altri due o tre libri, cartaceo, ebook, ed è una giornalista, ha scritto per varie testate, adesso scrive per un'agenzia di stampa, per l'AGI, per La Stampa, ha scritto per Sky, per Wired, Motherboard, Il Secolo XIX, per un sacco di gente fondamentalmente, e parla di tecnologia, di cybersicurezza, privacy e tutto quello che è cultura digitale. Ah, cofondatrice dell'agenzia F5, anche, fra l'altro. Siamo qui per presentare Guerra di Rete, che è un libro uscito nel 2017 per la Terza, e che tratta appunto queste tematiche qua, hacking di Stato, lo spionaggio, tutte queste tematiche qua legate al mondo, alla cultura digitale. Insieme a noi c'è anche una Pinke, che è una rappresentante di Autistici Inventati. Autistici Inventati è un gruppo di persone che si dal 2001 ormai, se non sbaglio, sono attivi, direi quasi internazionalmente, per dare degli strumenti tecnologici per chi vuole fare da sé, rispettando la propria privacy, rispettando la gestione dei dati, non tengono nessun database dei dati, garantiscono l'anonimato per mail, blog e quant'altro. E, bene, queste due sono le persone che abbiamo qui con noi. Partiremo da una presentazione appunto di Datarazia stessa, di Guerre di Rete stessa. È un libro molto interessante, è molto divertente perché l'ho trovato per caso, l'ho letto e mi è subito piaciuto. Tanto il titolo, che appena l'avevo visto, l'edizione vecchia, che è questa qua, che è tutta nera, cattivissima, Guerre di Rete, e uno dice subito, ma cos'è? Questo è un libro, è tipo, scopro il controspionaggio, spionaggio, azioni di guerra, e invece è un libro di storie, di conflitti, di storie inerenti alla rete. È diviso in 9 parti, diciamo, in 9 macrotemi, che però non prendono, cioè non hanno quella spinta sensazionalistica, comunque, di cercare di trovare il fattore da clickbaiting, possiamo dirla così, ma indagano molto bene molte delle tematiche, alcune delle tematiche che più andiamo avanti più si stratificano anche di significato e più acquistano anche un significato geopolitico, nonché tecnico e di vari ambiti, cioè diventano sempre più importanti per anche chi in teoria non si occupa di e non si interessa più di tanto del proprio agire nel mondo digitale, della propria vita digitale. Intanto la prima cosa che chiederei a Carola è che cosa vuol dire essere una giornalista cyber che si occupa di queste tematiche qua in Italia, visto che spesso siamo più indietro rispetto al mondo anglosassone per quanto riguarda la divisione dei compiti, tra virgolette, dei giornalisti, delle tematiche, dello sviluppo di figure specifiche. E appunto, quindi la prima domanda è proprio questa qua, cioè come si comporta il giornalista che si deve occupare di queste questioni qua, che per antonomasia si muovono anche molto velocemente e sono difficili da inquadrare in uno scritto, in un articolo. Innanzitutto grazie dell'invito e un saluto, diciamo, a tutti. Cosa vuol dire fare giornalista, diciamo, fare il giornalista cyber, occuparsi di questi temi? In realtà credo che ci sia stato un passaggio negli ultimi anni, cioè questi temi qua fino a un po' di anni fa erano considerati temi prettamente tecnologici, per cui c'era il giornalista tecnologico che magari, soprattutto in Italia, devo dire, tendeva a occuparsi, non so, del gadget, del dispositivo, di questo genere di cose. Ma soprattutto negli ultimi anni è emerso sempre di più come la tecnologia in realtà sia politica. Cioè, come la tecnologia abbia in qualche modo impregnato tutta una serie di ambiti che vanno dalla geopolitica alla vita personale, appunto, dei cittadini, che vanno da impattare su come intendiamo, ad esempio, sulle garanzie del sistema giudiziario, insomma, a processi, diciamo, anche economici importanti. Quindi occuparsi di questi temi in realtà significava occuparsi della società, della politica e di come la tecnologia stava cambiando, e stava proprio cambiando anche i rapporti di forza e il modo in cui e come stava generando dei conflitti, e delle situazioni nuove per certi versi, proprio perché agevolate da tutta una serie di strumenti. E quindi da lì nasce quindi il discorso, appunto, come dicevi tu, delle guerre di rete, nel senso di esaminare alcuni di questi conflitti. Poi uno, se va a prendere l'aspetto, come dire, più eclatante di questo genere di cose, va subito magari a vedere la parte cybersicurezza, no? Perché c'hai gli attacchi, no, se vogliamo, la parte più aggressiva, violenta di questo genere di dinamiche, però è anche più comodo perché riesce a vederla meglio, emergono più facilmente, mentre magari altri fenomeni come quelli della questione dei dati personali diffusi in giro tra piattaforme eccetera rimangono più impalpabili ed è molto difficoltoso far emergere. Quindi per me è stato un modo per parlare di certi temi tirando fuori effettivamente casi concreti. E appunto, fare il giornalista cyber significa occuparsi di appunto, secondo me, di temi che vanno a impattare proprio sulla politica, sulla società. E tra l'altro significa anche aggiornarsi molto su tutta una serie di temi che richiedono, cioè che cambiano in continuazione. Oggi ne parlavamo prima con te. Dicevo che è proprio nato un ambito che prima non c'era. Se uno guarda addirittura le richieste di lavoro, le offerte di lavoro, ad esempio da parte di certi giornali internazionali, parliamo sempre di un ambito globale, c'era ad esempio una richiesta, un'offerta, ad esempio, dell'agenzia Bloomberg, che cercava un giornalista esperto di criptovalute. Cioè arriviamo a una specializzazione proprio all'interno dell'ambito digitale anche, quindi hai lo specialista di Facebook, lo specialista di intelligenza artificiale, poi chiaramente in realtà tu devi masticare tutta sta roba qui, perché poi non è che, però hai già delle specializzazioni molto settoriali, proprio perché sono dei mondi dentro un mondo più grande, cioè ognuno di questi contiene una quantità di conoscenze, problemi e necessità continua di aggiornamento che è a sé stante. Quindi forse rispetto a giornalisti di altri ambiti tradizionali, la parte aggiornamento è forse quella più ampia e più faticosa da stargli dietro, ecco. Beh sì, infatti, cioè, non stupisce affatto. E, una cosa che mi ha colpito molto, cioè che in realtà mi colpisce spesso quando vengono trattate queste tematiche qua, appunto è la stratificazione di significato e di quanto una questione più o meno specifica impatta in realtà come significato e come senso a vari livelli, cioè da un livello sociale di scelta politica a un livello tecnico poi di funzionamento, no? Perché per come è costruita l'infrastruttura di una app o di un social o di quello che vuoi, questo ha con sé tutta una serie di significati e di significanti che vanno sicuramente a impattare a vario livello e denotano anche il funzionamento e il senso di quello che viene fatto. Ora, cioè, nel tuo libro parli molto anche di sicurezza, di gestione dei dati, di un sacco di tematiche trasversali al mondo dell'infosfera, insomma, dell'informazione. E una cosa molto interessante è appunto, cioè, la classica risposta che viene data, cioè, quando tutti noi ormai siamo produttori di dati, più o meno inconsapevoli, però tutti noi produciamo una mole di dati gigantesca che viene usata, che è una fonte di ricchezza sempre più grande per attori spesso privati, per aziende private, che diventano appunto la fonte maggiore di, pensiamo a Facebook, per esempio, un esempio su tutti, cioè una, si basa su questo, esclusivamente, cioè sulla, sulla pubblicità targetizzata, sulla creazione di banche dati enormi, di abitudini e di scelte, di dati, che poi vengono usate in, come gli pare. Cioè fondamentalmente l'idea, la risposta spesso quando una persona, capita spesso anche quando uno ne parla con chiunque, con qualunque persona, di la risposta non ho niente da nascondere, quindi non è un problema se qualcuno detiene tutti i miei dati, me li controlla, me li gestisce. Che è un po' è una risposta un po' fallace, perché non torna bene, perché nel senso il controllo dei dati è tenuto da attori privati e la gestione di questi controllo di queste banche dati non è limpida, non è più che altro creando queste banche dati, seguendo l'idea che io accumulo perché posso accumulare, perché ho la possibilità di accumulare tutti questi dati, senza poi pormi il problema di e questi dati poi cosa ci verrà fatto, come verranno usati fra 5, fra un anno, fra 2 anni, fra 3 anni, fra 4, fra 5, come verranno usati e cosa può succedere. E spesso capita spesso di leggere, c'è questo anche con l'ultimo evento più eclatante, diciamo, che ha avuto anche una copertura mediatica molto grossa, cioè con Facebook, con la vendita, praticamente l'utilizzo dei dati, in un fatto di cronaca recente, per secondi fini non dichiarati e non... Come è possibile? Cioè, come... Quale può essere una strategia, un modo per capirci qualcosa, cioè per riuscire a trovare una soluzione, tra virgolette? Tanto mi è venuto in mente un esempio, quando parlavi di stratificazione di questi problemi, ti faccio un esempio di stratificazione che rende bene l'idea. Un paio di anni fa c'è stato un aggiornamento del software dell'iPhone. Chi usava l'iPhone, gli è arrivato un aggiornamento importante di sicurezza del software. Questo aggiornamento chiudeva, come dire, delle falle di sicurezza che erano state individuate perché un attivista dei diritti umani degli Emirati Arabi Uniti era stato preso di mira da degli attaccanti, presumibilmente, si presume lo stesso governo, perché era già, diciamo, del mirino del governo, era stato preso di mira con uno spyware, un software spia, e c'era stato il tentativo di infettare il suo dispositivo utilizzando appunto queste falle ancora sconosciute nell'iPhone e usandole per infettare e poter poi spiare tutto quello che faceva quest'uomo con il suo dispositivo. Se non che questa Ahmed Mansour si chiama, lui era, purtroppo aveva già esperienza di questo genere di cose, perché era già stato preso di mira 2 volte con lo stesso tipo di sistema e quindi tutte e 3 volte, diciamo, di queste 3 volte il software spyware usato era di un'azienda diversa. Quindi, cioè, 3 diverse aziende hanno usato lo software di 3 diverse aziende. Quindi, in quest'ultimo caso, lui in qualche modo se n'è accorto, ha capito che c'era qualcosa che non andava, ha passato questa roba ai ricercatori di sicurezza, i ricercatori di sicurezza sono andati a fondo, hanno capito questa cosa qua, hanno poi avvisato la Apple, individuando... Quindi, diciamo, da un attacco mirato contro, in quel caso, un attivista di uno Stato diversamente democratico, in cui è stato utilizzato, tra l'altro, tecnologia occidentale per fare questo genere di attacco, si è arrivati a un aggiornamento di sicurezza per tutti gli utenti mondiali. Questo mi sembra un interessante esempio in cui le cose si toccano, no? Cioè piani diversi si vanno a toccare. Per quanto riguarda il discorso non ho nulla da nascondere, questa è una diatriba ormai nel senso, il discorso non ho nulla da nascondere è appunto, come dici tu, fallace, nel senso che innanzitutto, cioè, tutti hanno qualcosa da nascondere, ma non nel senso di avere lo scheletro nell'armadio, ma nel senso che tutti hanno necessità di poter controllare quello che vogliono rivelare di se stessi al mondo, ad altri, a specifici gruppi di persone, a singoli. Questa capacità di avere il controllo su quello che vuoi rivelare è di quello che vuoi dire di te, che si sappia di te, è qualcosa di granulare che ognuno determina e gestisce in modo diverso, ma è fondamentale avere questo potere di gestione e di decisione. Quindi il discorso non ha nulla da nascondere, è sbagliato perché viene sempre presentato come se uno la mettesse sul piano, ma non hai ammazzato nessuno, non sei un ladro, non sei un terrorista, cosa c'hai da nascondere? Non è quello il punto è un po' più sottile, no? Cioè è il discorso, perché è importante avere questa capacità? Ma perché la esercitiamo già nella nostra vita normale offline e pensate un attimo se qualcuno ve la cominciasse a togliere questa capacità, se qualcuno cominciasse a potersi guardare a casa vostra o a sapere sempre dove siete. Quindi è chiaro che il problema qual è? Il problema è che con l'esplosione del digitale negli ultimi anni di dispositivi di un certo tipo, a partire dagli smartphone, a partire da tutta una serie di piattaforme, app, social network, questa capacità rischia di essere progressivamente tolta senza che neanche le persone se ne accorgano, perché è come un continuo licare, un continuo perdere dati, e dati che riguardano sempre di più aspetti personali della tua vita, perché rispetto magari a un po' di anni fa, oggi su uno smartphone noi abbiamo fondamentalmente una mappatura molto fedele della nostra vita, del nostro io, e cioè si parla di corpo digitale, di io digitale, di una sorta di prolungamento del corpo e dell'io, lo smartphone. La perdita di dati è continua. Cioè non sono solo i dati che si danno a Facebook, sono i dati di localizzazione che noi continuamente diamo a Google e a molte altre entità, che non si sa come verranno poi gestiti. Già adesso, oggi ho scritto una notizia di un'azienda americana il suo settore era comprare dati dalle aziende telefoniche americane sulla localizzazione dei loro clienti, attraverso i telefoni, e rivenderli ad altri per particolari servizi. Non si capisce bene esattamente con quali limiti, eccetera. Perché è venuta fuori questa cosa? Perché poi qualcuno ha scoperto che questa azienda ha un sito per far vedere ai clienti come funziona il servizio e far vedere che funziona. Per cui tu cosa fai? Puoi andare sul loro sito e mettere il cellulare tuo e dirgli fammi sapere dove sta in questo momento, no? Lorenzo. Naturalmente, siccome questa cosa la fanno in teoria in modo legale, luce del sole, non lo puoi, devi fare in questo caso col tuo consenso. Quindi ti arriverà un SMS che ti chiede, non so se puoi essere localizzato, immagino una cosa del genere, non lo so. Cosa è successo? Che un ricercatore si è accorto che, tra l'altro, tra le altre cose, già questa azienda che si muove in questo mercato, voglio dire, è un po'. Shady, un po' ombroso a dir poco della vendita di questo tipo di dati, aveva pure delle falle il sito, per cui una persona poteva andare lì a girare questo sistema che necessitava comunque di avere il consenso dell'interessato e usare il sito per localizzare geograficamente qualcuno a distanza di pochi metri, sapere dov'è in quel momento in tempo reale. Ma questo è una goccia del mare, che c'è in questo momento in cui siamo immersi, in cui non abbiamo veramente, fatichiamo veramente, se noi volessimo ripercorrere la nostra scia digitale e capire pezzo per pezzo come è composta, dove va a finire, in che mani va a finire, come sarà utilizzata, noi non lo sappiamo in realtà. E l'altro problema a cui tu accennavi è, c'è un problema attuale e c'è un problema in prospettiva. Cioè, uno dei problemi dei dati è che non sai quanto verranno conservati, da chi, in che mani finiranno e come verranno usati in futuro, in che modo si potranno ad esempio fare delle aggregazioni dei dati, cioè unire dati che in questo momento sono scollegati per creare magari ulteriori profili che possono essere utilizzate per cose specifiche. Quindi questa nostra incapacità di vedere come potrà essere utilizzato è molto pericolosa, perché quello che neanche non ti fa... ti impedisce di agire, e quindi difendersi da questo è molto difficile. Siamo veramente in una fase di grande confusione in questo momento. No, a me mi faceva venire in mente le cose che diceva Carola, che innanzitutto, su cui ovviamente sono d'accordissimo, innanzitutto la risposta non ha niente da nascondere, è un qualcosa che forse ti veniva detto prima, cioè molti anni fa, cioè io mi ricordo che all'inizio quando con Autistici in Vente andavamo in giro a fare questo tipo di presentazioni, di dibattiti, effettivamente ti veniva chiesto questo, cioè ti veniva risposto così. Anche perché la porzione della tua vita che mettevi a disposizione era meno. Quindi ci poteva effettivamente stare che all'interno della quella porzione non ci fosse qualcosa che tu ritenevi importante o che comunque secondo te potevi decidere di poter esporre. Adesso è cambiato, evidentemente, è sotto gli occhi di tutti, per cui molta meno gente si sente di poter fare questa affermazione perché la porzione di vita che tu esponi è pressoché totale e quindi all'interno di una percentuale della mia vita che è del 100%, sì, è molto probabile ci sia qualcosa da nascondere. Ma penso che sia sotto gli occhi di tutti, per cui ti viene detto molto meno, devo dire. Altra cosa, volevo citare un concetto che lo prendo a prestito dai francesi che hanno scritto la guida di autodifesa digitale che presenteremo fra l'altro domani qui sempre al Festival della Letteratura Sociale. E loro, ad esempio, per provare anche a ribaltare un po' questo concetto di sicurezza, che poi molto spesso il termine sicurezza è abusato, è stato usato in termini polizieschi, repressivi, eccetera. E, ad esempio, loro invece di parlare di sicurezza parlano di intimità. E questo è, secondo me, un ottimo modo per anche affrontare la questione, perché io magari non ho niente da nascondere, non è che ho fatto un reato, ho fatto qualcosa di, a parte che insomma se ne dovrebbe parlare quanti di noi non hanno fatto reati, però vabbè, magari ci sta, abbiamo davanti dei santi, ci può stare, però ho un'intimità. Nel senso, io magari quello che voglio difendere non è un aver fatto qualcosa di male, di quello che viene comunemente detto male, ma è un qualcosa di mio, una fetta di me intima, per cui anche banalmente voglio scrivere una lettera a una persona a cui tengo, ma la scrivo a lui, non la scrivo al resto del mondo. Non voglio che il resto del mondo partecipi di quello che io sto scrivendo a lui, perché sono cazzi miei, sto scrivendo una cosa, è mia, è sua, è di nessun altro. Quindi questo approccio secondo me è utile perché molto spesso ci ha messo invece l'altro tipo di approccio sulla sicurezza, sul reato, sul buio versus luce, ci ha messo un po' sulla difensiva. Cioè, vabbè, però aspetta, quindi stai insinuando che oddio, sto facendo qualcosa di male. Invece questo approccio secondo me è utile perché ribalta un po' la prospettiva e veramente penso che nessuno di noi sia in grado di cedere totalmente la propria intimità. Se no, veramente è un problema, ma io sono una persona di fondo ottimista, anche se non sembra, e quindi sono convinta che in realtà nessuno di noi voglia rinunciare alla propria intimità. E quindi da questa luce è interessante forse guardare le cose. Altra cosa è che ci viene spesso fatto di pensare a noi stessi proiettati sulla rete, sul digitale, come individui, ma non è così. Evidentemente siamo all'interno di una comunità, di una società in qualche maniera più o meno organizzata. Abbiamo dei vicini, abbiamo delle persone che ci stanno intorno che sono con cui abbiamo dei contatti ramificati, per cui quello che vale per me non necessariamente vale per chi mi è accanto, per cui se io non ho niente da nascondere, non è detto che il mio amico accanto a me, magari lui ce l'ha qualcosa da nascondere e io magari sono tranquillo, lui no. E i casi di cui si parla anche in questo libro, ma insomma, basta aprire oddio, aprire un giornale non tanto spesso, però insomma, basta stare un po' con gli occhi aperti, diciamo. Spesso se ne legge, cioè cioè capita spesso che magari io, attraverso la mia disattenzione, attraverso la mia non conoscenza di cosa sto facendo, la mia anche in qualche maniera incuria, leggerezza con cui uso la tecnologia, magari io personalmente non rischio, ma faccio rischiare chi mi sta accanto, il che non è una cosa da sottovalutare, perché anche qui non si tratta necessariamente di reati o di cose cattivissime, ma dell'intimità, per l'appunto, non solo mia ma anche di quelli degli altri, per cui entrano sul mio di computer, entrano sulla mia di casella di posta, ma entrano anche sul telefono di chi mi è amico. Con quale diritto io, oltre che alla mia di intimità, gioco anche quella degli altri? Cosa che poi succede spesso, e lo vedete spesso quando vi infilano, che ne so, nelle liste di spam, nelle catene di Sant'Antonio, eccetera, eccetera, e lì lo vedete, cioè avete una prova tangibile, ovvia, e penso che a chiunque dia noia. Ecco, in una percentuale molto più enorme succede tipicamente attraverso l'uso commerciale che viene fatto della tecnologia. Ultima cosa anche che mi veniva da dire era che le cose non sono sempre così, evolvono molto velocemente, come diceva Carola, evolvono spesso in modi che non necessariamente noi siamo in grado di prevedere, per cui ciò che adesso non è un reato non è detto che tra un anno non lo sia. Un sito che io sto visitando, che adesso è legalissimo e va benissimo, tra un anno magari non lo è più. Quindi c'è da stare molto attenti a cosa si fa e al concetto di legge e di tranquillità che ne deriva, perché se adesso sono tranquillo che non sto facendo niente di male, non è detto che l'anno prossimo sia così. Ad esempio, sempre citando i francesi da un momento all'altro si sono ritrovati sotto uno stato di fatto di calamità marziale, per cui hanno delle leggi speciali per cui quello che era normale fare un giorno, il giorno dopo non lo era più. Non, spesso non siamo in grado di prevederlo, quindi c'è da stare c'è da camminare sui vetri, perché la tranquillità con cui ci troviamo a camminare adesso non è detta che sia così anche domani. Infatti, e tra l'altro un altro dei grossi temi è, ad esempio, oltre a tutti questi problemi che dicevamo, è il tema della cancellazione delle nostre tracce digitali, dei dati. Cioè è estremamente difficile far sparire le nostre tracce digitali, e queste perdurano nel tempo per tutta una serie di ragioni, a parte il fatto che noi adesso, tra l'altro, in Italia abbiamo una legge, siamo, come dire, in Europa siamo quelli che abbiamo la peggiore, diciamo, data retention, abbiamo dei tempi di data retention di 6 anni, cioè vuol dire, no, già la conservazione di tutti i dati del traffico telefonico e telematico, ok? Ma pensiamo anche alla difficoltà a cancellare, non so se avete mai fatto caso, avete mai provato a fare una cancellazione dei post Facebook? Se voi voleste, non so, cancellare in blocco una grossa quantità di vecchi post su è faticosissimo, è difficilissimo farlo in modo semplice, cioè in modo veloce e semplice. È fatto per non cancellare, sono sistemi fatti per non cancellare, e comunque è molto difficile avere la certezza che comunque anche quando si chiude un profilo, quando si chiude un account, quei dati verranno cancellati. Idem per le app dei nostri dispositivi e per i nostri dispositivi. Ovviamente, ad esempio, quando si cancellano i messaggi su WhatsApp, in realtà un forense è in grado di ritirarteli fuori, a meno che tu non abbia, o riformattato o comunque insomma disinstallato l'app e così via, e comunque un colloquio con un informatico forense, sono quelli che appunto in caso di indagini si occupano di tirare fuori i dati dai dispositivi, ecco, diciamo, un colloquio con un informatico forense è sempre un'attività estremamente salutare che andrebbe fatta a livello di educational per le scuole, perché ti fa veramente capire come sia difficile appunto cancellare delle cose, come i nostri dispositivi abbiano dei dati e tengano dei dati che noi non riusciamo magari neanche a immaginarci sul momento, e cosa sia possibile tirare fuori. E questo moltiplicato all'ennesima potenza tra dispositivi, social, piattaforme, eccetera, E poi, diciamo, anche i sistemi di analisi adesso, anche ad esempio i sistemi di analisi diciamo, su fonti, anche su fonti aperte, quindi cioè, su fonti aperte vuol dire in questo caso, no, utilizzando internet, non andando a cercare il tuo, guardare dentro il tuo dispositivo, ma quello che c'è su internet, sono in grado di fare collegamenti, tirare fuori insomma un sacco di roba. Quindi laddove ci possano essere degli intenti malevoli di utilizzare questo tipo di tecnologie, ci puoi fare molti danni. Sì, poi cioè, mi veniva in mente che fra l'altro sarà non per fare tipo l'appassionato di distopia o cose del genere, però si va, cioè, mi viene in mente anche con l'Internet of Things, tutte queste questioni qui, si va verso l'aumento di queste scie, di queste possibilità di controllo anche del frigorifero di casa, della macchina, cioè la prospettiva che ci sta venendo presentata come unico futuro possibile, auspicabile, va a peggiorare questa situazione, cioè va ad aggiungere criticità, molte criticità a tutto questo, a tutta questa situazione, insomma, quello che stavamo dicendo ora. Fra l'altro, ora, per tornare un po' di più sul tuo libro, che fra l'altro questa è l'edizione vecchia, che è molto più cattiva, quella nuova è alleggerita, è meno nera. No, te, cioè te hai fatto una divisione, diciamo, in 9 storie, diciamo, legate alla rete. In molte, però, specialmente nella prima parte, tu ti focalizzi molto sul hacking di Stato, diciamo, cioè su quello appunto che spesso magari anche quando uno un po' più ignorante su queste questioni qui pensa quando sente hacker, pensa proprio a questo, cioè a battaglie fra stati, furti di dati e cose del genere, che in realtà poi nella cronaca in realtà è venuta fuori non da troppo tempo con l'episodio di Stuxnet, cioè che appunto non so se lo sapete, però comunque venne fuori che è stato fatto un attacco fondamentalmente informatico da Stati Uniti e Israele per andare a colpire, fra l'altro, nel mondo fisico delle turbine dei centrali nucleari in Iran, che è stato un po' la scoperta del vaso di Pandora, lo scoverchiamento del vaso di Pandora, nel senso che a quel punto è uscita fuori a livello di cronaca, a livello internazionale come notizia comprovata, e quindi si è un po', diciamo, sdoganata il fatto di poter fare appunto attacchi a livelli molto alti, con molti fondi, utilizzando diverse vulnerabilità, zero days, chi ne metta, per fare questo tipo di attacchi. Però continuando a leggere il tuo libro, da queste situazioni qua, da queste storie qua, si arriva accompagnati a capire che anche queste azioni qua arrivano poi a avere un'influenza e arrivano a infettare ovviamente gli strumenti dei singoli cittadini, cioè di persone che non, in teoria non c'entrano niente e non sono niente. Quindi anche questo, per tornare sempre sul punto, che nella rete non c'è niente di diviso, non c'è nessuna divisione fra una cosa o l'altra, cioè non potenzialmente in qualsiasi cosa avviene nella rete, chiunque, cioè qualunque singola persona è dentro la cosa, cioè può essere toccato da quella cosa. E è una riflessione che mi è venuta appunto leggendo, che mi era tornata fuori leggendo il tuo libro, che è molto interessante, perché ti fa capire come tutte queste questioni qui tocchino qualsiasi persona che utilizza qualsiasi dispositivo. E volevi... Sì, volevo dire qualcosa su questo. Sì, infatti tu citavi, sicuramente negli ultimi anni c'è stata una crescita dei gruppi di hacker statali, no? Cioè nel senso che tutte le maggiori potenze, più che investire nel mettere in sicurezza gli stati, le infrastrutture critiche, i cittadini, da questo punto di vista, hanno investito nell'offensiva, cioè hanno investito in capacità di attacco, ed è cresciuta a dismisura negli ultimi anni questa cosa, e appunto Stuxnet è stato un episodio simbolico perché in quel caso lì, cioè, esistevano già, diciamo, era, però, questo tipo di, diciamo, di scontri, ma lì è stata la prima volta in cui è emerso a livello pubblico, quantomeno, un tipo di attacco che addirittura andava a fare sabotaggio. Quindi si fa un passo ulteriore, non è più lo spionaggio, arriva al sabotaggio fisico, che poi sì, è il grande spauracchio che viene un po' girato, insomma, negli ultimi tempi appunto dell'attacco a infrastrutture critiche, quella roba un po' la Mr. Robot, no? Che fai saltare tu. Che è una possibilità, in realtà, c'è la possibilità che le infrastrutture critiche possano essere attaccate, ci sono ad esempio centrali elettriche che sono state infiltrate, in alcuni casi ci sono stati dei blackout, ad esempio in Ucraina, che è stato un po' un laboratorio da quel punto di vista, ma per ragioni ovviamente geopolitiche, no? Perché c'è un forte area di tensione in quella zona lì, con la Russia di mezzo, eccetera, quindi diciamo che lì ci sono stati visti ad esempio dei casi di questo tipo. Però il punto qual è? Che al di là di questo tipo di episodi, questa corsa alle armi digitali è stata deleteria poi per tutta una serie di altre cose, e un esempio in cui, appunto, di nuovo per far vedere i piani che si toccano, per cui non è solo un discorso dell'hacker, della cyberspia statale, che uno potrebbe anche dire, ma a un certo punto, ma chi se ne frega, voglio dire, no? Affari loro. C'è stato questo episodio anche un po', vuol dire, bizzarro, quando è successo a un certo punto che è sbucato online un gruppo misterioso che si chiamava The Shadow Brokers. Questo gruppo misterioso, che non si capiva se fossero hacker o cosa, comunque fatto sta che a un certo punto hanno detto: noi abbiamo hackerato la NSA, l'Agenzia di Sicurezza Nazionale, che, come sapete, è quella che si occupa peraltro di hackerare sistemi nel mondo, di fare insomma signal intelligence, no? E che era quella, diciamo, protagonista, se vogliamo, del Datagate di Snowden, era quel tipo di agenzia lì. Insomma, loro dicono: noi abbiamo hackerato la NSA, abbiamo tutta una serie di suoi strumenti, cioè di strumenti usati per fare attacchi informatici, e li mettiamo all'asta al miglior offerente online. Tutto questo poi in un inglese molto pirotecnico, che vabbè, tutto molto divertente. Solo che questi qua ce li avevano davvero, e gli hanno poi questa roba, poi alla fine è uscita. Non si capisce, appunto, poi c'era il discorso: ma questi chi essi sono a loro volta un'altra intelligence, forse sono i russi, forse sono degli altri. Insomma, fatto sta che comunque questa roba è uscita. E questi attacchi erano appunto contenevano tra le altre cose degli exploit, cioè la capacità, appunto, di sfruttare delle vulnerabilità nel software, in certi software, per fare degli attacchi. E sono stati poi utilizzati da altri, da un'altra entità ancora, che anche lì poi non si capisce chi fossero, c'è chi dice sono i nordcoreani, vabbè, qui diventa come il risico. Però questi qua, geni, hanno fatto il famoso ransomware WannaCry, utilizzando che cosa? Utilizzando questi attacchi rubati alla NSA. Quindi, allora, gruppo X ruba all'agenzia di intelligence americana questi attacchi, li dà online, li mette praticamente online lì, e qualche d'un altro li prende e ci fa il ransomware. Sapete, quel virus che cifra, ti prendi il ransomware, è un virus che ti cifra i file e non ti fa più accedere ai file se non paghi un riscatto, in genere in Bitcoin o qualche... solo che loro hanno fatto il ransomware potenziato, dopato, con questi exploit, con questi attacchi presi, rubati alla NSA. L'hanno fatto, come dire, più potente, che riusciva a propagarsi di più, ok? E quindi è venuto fuori quel casino che è stato WannaCry. Se vi ricordate, nel maggio 2017 c'è stato, si parlava, poi si diceva attacco globale, che non era il problema dell'attacco globale, era questo ransomware che si stava diffondendo praticamente quasi in modo naturale, e si è diffuso in non so quanti paesi, e alcuni di questi hanno avuto seri problemi, tra cui in particolare la Gran Bretagna ha avuto tutto il suo, diciamo, sistema sanitario nazionale, è andato in tilt, perché un sacco di presidi, ospedali, eccetera, hanno avuto problemi, ma roba da annullare prenotazioni, cioè proprio con proprio effetti... cioè veramente un po' la Mr. Robot in quel caso. Ci sono aziende che in quel caso lì, e anche in un attacco successivo, che è il famoso attacco NotPetya, che lì è partito dall'Ucraina e poi si è esteso, doveva essere un attacco contro l'Ucraina e poi è tracimato, a quanto pare, non si capisce bene. Comunque anche in quel caso lì ci sono aziende internazionali che hanno avuto, ma stiamo parlando di danni, cioè una compagnia di shipping internazionale ha avuto danni tipo 300 milioni di dollari di danni, ha avuto, ha dovuto bloccare tutte le attività informatiche per giorni, andare a mano, cioè... quindi insomma l'impatto poi su, cioè non è più un discorso alle spie, le cyber spie quasi, perché poi appunto questa corsa un po' all'offensiva in realtà, come racconto, ci sono poi anche, ha creato poi, ha alimentato ancora di più anche un mercato, se vogliamo, di vulnerabilità, di attacchi, in qualche modo fomentandolo, perché poi cominciano a girarci i soldi, ci sono i compratori, sono gli stessi governi che hanno un sacco di soldi, e poi ci sono magari singole aziende che hanno cominciato adesso a fare i famosi bug bounty, no? I bug bounty sono quelle cose per cui, non so, la Apple e Microsoft dicono: se trovate un bug, una falla nel nostro software, vi diamo tot soldi. E hanno cominciato tutti a farli, no? Sperando di avere, insomma, le persone, i ricercatori che gli danno input e gli aiutano a chiudere ste falle il più possibile. Però se dall'altra parte c'è gente che ci mette il triplo di soldi, basta, cioè, fine del gioco, cioè. E quindi poi i problemi sono in realtà sistemici, cioè, come dicevo prima, il problema è che molte di queste Internet of Things, che sarebbe il frigo stupido che dice di essere intelligente, queste cose qui, cioè, lì andiamo ancora peggio, perché lì andiamo a creare tutta una serie di dispositivi che sono molto difficili da gestire, molto difficili da proteggere, da aggiornare, che non sono stati pensati avendo in mente la sicurezza e la privacy. E se poi lo estendi a tutta quella categoria che è, come non so, i giocattoli intelligente, lì cominciamo a raccogliere anche dati interessanti, cominciamo a raccogliere i dati dei bambini, ci sono problemi quando sono state fatte analisi di, ad esempio, di questi generi di giocattoli intelligenti, non so, quelli con cui la bambola collegata a internet che interagisce con i bambini, per cui gli puoi fare un po' tipo Siri, non so come dire, no? Però questi dati qua venivano spediti in server in Cina, negli Stati Uniti, boh, come sono utilizzati. In un caso hanno visto che si potevano anche attaccare, cioè se un attaccante stava nelle prossimità riusciva addirittura a parlare attraverso la bambola, queste cose da profondo rosso in versione digitale. Lì è Far West, l'Internet of Things è Far West in questo momento, quindi pensarci bene prima di mettersi degli altri dispositivi in casa, perché ancora sui telefoni si sono fatti passi avanti negli ultimi anni, ma invece su questa roba qua adesso sta arrivando la grande ondata degli assistenti vocali, no? Che l'assistente vocale, che ormai anche si concretizza anche nel dispositivo che ti metti lì in casa, gli parli, adesso gli faranno probabilmente anche il robottino che ti segue per la casa e tu gli parli, gli dici, lui magari anche la videocamera, non lo so, ma tu immagina lì che cosa si apre, che scenari si possono aprire. Veramente non è, bisogna andarci molto cauti in questa fase storica, e piuttosto, insomma, come dire, con calma. Mi era venuto in mente anche quando era 2015, tipo FBI, Apple, che insomma per fermare un terrorista, l'FBI richiese l'accesso, l'aiuto da parte di Apple per accedere a un telefono prodotto da loro, e l'Apple alla fine della fiera si rifiutò, se non sbaglio, l'FBI si chiese a un'agenzia privata che sfruttò una falla, però insomma non venne aiutata direttamente dalla Apple, perché l'FBI chiedeva una backdoor, cioè un modo per riuscire a entrare, una chiave per riuscire a entrare dentro il telefono, dentro il sistema di criptazione del telefono stesso. E questa cosa qui me la ricollego all'idea, appunto, che è sempre quando ci fu tutta la votazione negli Stati Uniti per la per i diritti del digitale, ora non mi viene, per per l'autonomia della rete, per la, non mi viene la parola giusta, per la net neutrality, esatto. Ci fu questa situazione che mi colpì abbastanza, perché ci fu, insieme a tutta la parte di attivisti per la rete, queste cose qua, c'erano tutte le measure, Google, Facebook, che difendevano la neutralità della rete, cioè la possibilità che sarebbe fondamentalmente era il traffico doveva essere lo stesso per tutti, cioè la possibilità di traffico doveva essere la stessa per tutti, dimmi se sbaglio. La controparte era invece che se io potevo pagare, potevo comprarmi una capacità di trasmissione dati maggiore. La trasmissione dati maggiore è il fatto che tu tratti il traffico allo stesso modo, cioè io nel senso non è che mi blocchi un servizio perché non, ti sta antipatico, mi blocchi Skype o WhatsApp perché ti sta antipatico WhatsApp, oppure fai andare più veloce il servizio streaming tuo invece che quello della concorrenza, cioè quello è trattarlo, diciamo, non prioritizzare il traffico di alcuni su quello di altri. Però appunto, cioè, in tutta questa situazione mi colpì appunto gli schieramenti, no? Cioè, da una parte c'erano ovviamente chi offre, chi dà l'infrastruttura vera e propria, e dall'altra parte c'era sia chi si batte per determinate, un uso etico, insomma, per un determinato uso della rete, sia insieme a loro tutti i colossi del web, dei servizi web, Facebook, Google e tutto il resto. E mi colpì appunto per questo, cioè mi colpì molto quel momento lì, perché a quel punto non riuscivo bene a capire, cioè ovviamente perché loro gli tornava giusto per poter avere, potersi continuare a gestire le loro faccende come avevano sempre fatto. Però appunto, cioè, ricollegandolo sempre appunto al discorso dell'FBI, della backdoor. È complesso, perché gli attori che si muovono nella rete non è mai ben chiaro cosa sia per il bene della comunità fondamentalmente che si muove nella rete e quali siano i paletti e quali siano gli scarti che ci sono Allora, mettiamola così, esistono dei momenti delle alleanze tattiche, e ci sono dei momenti in cui ad esempio gli attivisti per i diritti digitali si sono trovati sulla stessa lunghezza d'onda anche di alcune grosse aziende tecnologiche, cioè, però è veramente, questi schieramenti sono mobili, come dicevi tu. Nel caso della net neutrality è proprio una questione di business diverso, cioè da un lato nella net neutrality tu hai da un lato le telco, quelli che forniscono connettività, le aziende di telecomunicazione, il vecchio, diciamo, tipo di industria di quel tipo lì, dall'altro hai le internet companies, quindi le internet companies hanno sempre sostenuto, diciamo, la net neutrality, perché in realtà loro, cioè hanno, anche se poi essendo grossi, probabilmente il problema della net neutrality è che quando tu cominci a toglierla, a chi subisce, diciamo, chi ne rischia di subire ricadute sono i piccoli soggetti, quindi quelli ormai sono dei colossi, probabilmente se la gestirebbero. Il problema è la piccola startup che grazie alla net neutrality riesce a essere competitiva anche con con il grosso attore, capito? Quindi è quello un tipo di problema. Nel caso della privacy, della crittografia, lì ad esempio nel caso FBI e Apple, ma non è solo Apple in quel caso, lì nasceva da due cose diverse. Un lato è che dopo che Edward Snowden ha tirato fuori nel 2013 diciamo, lo scandalo, chiamiamo così, della sorveglianza di massa e del fatto che comunque fosse facile sorvegliare le comunicazioni. Cioè intercettare proprio in massa, pesca a strascico, tu pigli tutto, poi dopo analizzi. Ok? Allora, tutta una serie di non solo di cittadini, ma tutta una serie di aziende hanno capito che lì forse era importante invece cominciare a fornire dei servizi più forti sul tema privacy e sicurezza. E ci sono aziende che hanno incominciato per ragioni non direi etiche, per ragioni di business alla fine, a investirci. Una di queste è stata Apple, anche perché Apple comunque ha un modello di business diverso, ad esempio, da Facebook. Cioè Facebook è interamente basato sui dati. Apple non è interamente, diciamo, basato sui dati come potrebbe essere Facebook. Quindi loro hanno deciso di investire su uno di questi aspetti, quindi di rendere, sono stati tra i primi a, ad esempio, passare alla crittografia end-to-end sul loro sistema iMessage, e poi hanno cominciato a creare dei dispositivi, degli iPhone, sempre più difficili, per cui era sempre più difficile entrarci se erano protetti da password, e se la password, chiaramente se la password è adeguata, perché poi cambia anche quello, ecco. Esatto, se metti qua il PIN dei 4 ti attacchi, come si dice, ecco. E quindi lì c'è stato questo scontro, ma in realtà c'era tutto un trend, perché hanno cominciato in quel periodo a nascere app di messaggistica che diffondevano, cioè basate sulla crittografia end to end, cioè questa crittografia forte in cui solo mittente e destinatario di fatto hanno le chiavi della comunicazione per cifrare e decifrare, cioè chi fornisce il servizio non ce le ha quelle chiavi, quindi anche volendo non riesce a leggerli. Ecco, se fatta bene, implementata bene, questa è la crittografia end-to-end. E hanno cominciato tutta una serie di servizi, cioè era nata prima ancora di Signal, c'era come si chiamava Signal prima, no? Red Phone e Text Secure, mi sembra che si chiamasse, ecco, che poi è diventata Signal, diciamo, ma poi il protocollo di Signal è stato preso da WhatsApp ed è stato implementato in WhatsApp, è nata Telegram, che comunque offre anche questo tipo di crittografia, sono arrivate tutta una serie di altre app, e nel frattempo appunto, era più difficile entrare in un certo tipo di iPhone. Tutto questo ha come dire, creato fastidio da parte di chi invece voleva un accesso più libero a questo, alle comunicazioni, ai messaggi, no? Per cui lo scontro, ma anche lì è uno scontro un po' fittizio, nel senso che alla fine entrare in questi dispositivi, ripeto, è molto più semplice di quello che si pensi, cioè, e a meno che non si tratti di particolare tipo di dispositivo configurato tutto in una certa maniera e così via, è facile alla fine entrarci, e comunque soprattutto se sei un soggetto molto interessante, cioè se sono disposti a investirci dei soldi, tant'è vero che poi nel caso Apple e FBI, Apple aveva tenuto il punto, ma poi non erano andati avanti il Dipartimento di Giustizia con Apple nel caso, perché si sono rivolti a un'azienda privata che gli ha fornito un attacco per in qualche modo entrare nel telefono, sono entrati nel telefono, andata così, però non gliel'ha fornito diciamo la backdoor, chiamiamola così, in quel caso Apple, no? E un po' questa tentazione ogni tanto ritorna. Ma perché? Perché ovviamente comunque un utilizzo diffuso di strumenti di crittografia di questo tipo, pensiamo soprattutto alla messaggistica, un altro tema ricorrente anche qui ogni tanto, anche in Gran Bretagna soprattutto, si percepivano, come dire, attacchi a ogni tanto qualche leader politico se ne è uscito con un ma questi app di messaggistica, insomma, che noi dobbiamo poterci entrare, dobbiamo poter vedere i messaggi, dobbiamo poter però sono, come dire, secondo me sono un po' tentativi di fare pressione, ma che non hanno trovato nessun tipo di sponda, perché è un po' che cosa fai? Ne blocchi uno, ma poi ne nasce un'altra, cosa vuoi fare? Cioè, il problema qual è? Che non riesci più, se molta gente, molti utenti cominciano a utilizzare questi strumenti, fai molta più fatica a fare quella intercettazione a strascico di cui si diceva prima. Cioè fai molta più fatica non è più come il GSM, la gente parla al telefono e lì pigli tutto quello che vuoi, se la gente comincia a comunicare solo via WhatsApp, per dire, è già più difficile fare questo tipo di analisi. Dopodiché, se tu hai come obiettivo il sospetto terrorista, ci sono tanti altri modi, cioè fondamentalmente uno dei modi è sicuramente quello di hackerargli il telefono o comunque di insomma, non è che non riesci ad arrivarci, è un po' più complicato, fai più fatica. Quindi dal punto di vista anche magari degli investigatori, è chiaro che loro vorrebbero avere un accesso più semplice, come una volta devi fare l'intercettazione telefonica, boh, facevi l'intercettazione, adesso insomma. Però quello che si diceva prima, d'altra parte, in realtà noi lasciamo molti più dati rispetto al passato. Pensiamo, non so, a 30 anni fa, quando non si usavano neanche i cellulari. Lasciavamo molti meno dati in giro, c'erano molte meno tracce delle attività delle persone, quindi in realtà oggi anche chi voglia fare indagini ha a disposizione una massa, il problema è riuscire a usarli, avere gli strumenti per farlo, ma non direi che sono disperati, anzi, cioè, c'è chi ha detto siamo nell'era d'oro della sorveglianza, per cui almeno su cose basi, tipo poter avere una crittografia end-to-end per i messaggi, ma direi che... possiamo, chiamiamola la base, in questo momento, vista la situazione di estrema insicurezza a livello, diciamo, informatico in cui siamo tutti immersi, almeno quello che può alzare il livello di sicurezza, ben venga. Non mi ricordo se è l'ultimo capitolo o il penultimo, comunque, che è intitolato proprio Terrore, la gestione sulle colpe che vengono date su questo appunto tipo di tecnologie criptate, così gli è stata spesso data la colpa di aiutare il terrorismo e di essere il veicolo, poi tutta la parte informatica, di essere il veicolo principale di tutto quello che è il terrorismo contemporaneo di matrice islamica, ISIS e compagnia. E è curioso come spesso, mi è capitato anche di leggere appunto articoli, robe su queste cose qua, che le indicavano come appunto, cioè è un problema, cioè se c'è qualcosa, un modo che tutti possono usare crittografato per comunicare, è un problema perché ci può essere anche il terrorista o chi devo ricercare per questioni di ordine pubblico o quant'altro, e quindi non posso, cioè pur di non dare... Cioè di non dare questa possibilità a queste persone qui, meglio che nessuno ce l'abbia, che tutto possa essere. Cioè è una retorica che c'è, che esce spesso fuori, anche nella stampa, cioè sui giornali, spesso, ora per non citare i giornali specifici, però spesso quando parlo di questa cosa qui, per esempio ora La Nazione, cioè tirano fuori delle cose veramente fuori di testa, cioè La Fazione, una roba assurda, e è pericoloso. Cioè è una gestione di queste cose qui, una gestione del linguaggio anche. Ora nel tuo libro appunto come tema centrale c'è appunto l'hacker, come in tutte le sue declinazioni, te gli dai, se ne parlava anche prima, gli dai una connotazione neutra al termine hacker, cioè non come spesso viene fuori hacker, allora è quello che fa appunto l'attacco, che ruba qualcosa o che si intrufola da qualche parte, oppure dall'altra parte il termine proprio da etimologia, cioè l'hacker del MIT, con una sua etica, con una sua idea di conoscere i mezzi, conoscere, sapere a che cosa, con cosa ha a che fare, e di distribuire la conoscenza, no? La conoscenza in toto, e distribuirla, renderla orizzontale, che è il significato originale di hacker. Che è proprio una questione, appunto, è proprio una questione di linguaggio anche, cioè che spesso non viene dato il giusto peso ai termini che vengono usati. Ora spesso, poi per quanto riguarda anche queste cose qua, si usano molti termini anglofoni o comunque estranei un po' al linguaggio nostro, alla nostra lingua, che quindi però appunto ancora di più vengono usati come degli specchiettini, cioè come dei contenitori di senso gestibili in un modo un po' non molto neutro. Cioè mi è piaciuto molto l'utilizzo che fai te di termini specifici nel tuo libro, perché gli dai appunto questa connotazione qui, cioè di neutralità. Cioè io ti presento il termine e poi nel contenuto poi della storia, del capitolo, della parte, anche degli articoli, poi nei tuoi articoli insomma si nota questa cosa qua, do le notizie effettive, cioè quelli sono dei punti di riferimento e poi ti spiego il tutto. Non appunto non viene usato in maniera, a dire, faziosa, quasi pericolosa, e questo è... Allora, sulla questione terminologica appunto ne discutevamo prima, c'è un annoso dibattito, no? È chiaro che È chiaro, e lo diciamo una volta per tutte, che hacker ha un'origine, un significato positivo, lo sappiamo tutti, nobile, e ancora ha questo significato, quindi andrebbe usato con questo significato. Dopodiché il punto è che negli ultimi anni lo scenario si è fatto così complesso, come dicevamo prima, in cui abbiamo tutta una serie di figure, non so come dire, cioè il cybercriminale come classico, nel senso quello proprio che fa i soldi, ok? Che ti manda il ransom per farsi i soldi, oppure che si vende le carte di credito e poi magari buca dei siti per... C'hai quello che fa cyberspionaggio, c'hai l'attivista, hai l'hacker, quello che viene chiamato il white hat, cioè nel white hat sarebbe, o a volte viene anche definito hacker etico, che nella terminologia di chi si occupa insomma di questa sicurezza informatica sarebbe l'hacker che difende sistemi o che fa penetration testing, testa sistemi allo scopo di comunque proteggerli. C'è il ricercatore di vulnerabilità che si occupa di sicurezza, cioè hai tutto uno scenario in realtà molto composito, e poi hai anche figure in realtà intermedie, ambigue, cioè non è tutto così tagliato con l'accetta, cioè figure che non sai bene neanche collocare, se white, perché si dice black hat per indicare il cybercriminale, white hat per indicare l'hacker etico, ma ci sono un sacco di capelli grigi in mezzo. E vai a capire che magari in certi momenti si comportano in un modo e in altri in un altro, oppure in certe situazioni, oppure non sai le motivazioni effettive di un attacco. Magari c'è anche l'attivista, ok? Quindi dici, delle motivazioni di tipo dimostrativo, politico, e come dire, che magari invece non è un attivista, cioè finge di essere un attivista, è qualcosa di diverso, cioè è abbastanza un casino. E allora il discorso appunto di dire uso il termine hacker in modo neutro, nel mio caso è in realtà adattandomi a quella che è ormai l'uso anglosassone della stampa anglosassone tecnica, tecnologica, nel senso di dire uno che tecnicamente fa un certo tipo di cose, dopodiché nell'articolo si capirà di che cosa si sta parlando, cioè ha sfondato una roba per una banca per fare un trasferimento, un IBAN da 20 milioni di dollari da un'altra parte, oppure non lo so, poi uno trarrà poi le sue valutazioni. In un'ottica però anche di essere abbastanza, di non, come dire, io preferisco sempre non sbilanciare, cioè nel senso di dire lasciare il lettore che si faccia la sua idea. A me piace il giornalismo, quello che cerca di spiegare, cioè di dare il più possibile i fatti. È chiaro che poi tu già nell'impostazione, è chiaro che c'è sempre una soggettività del giornalista, no? Nel momento in cui scegli, cioè dai un'impostazione al pezzo, non è che si può dire che non ci sia soggettività, però quantomeno nell'esposizione cercare di, perché già sono temi complessi, e far parlare i fatti. A volte mi capita spesso, devo dire, di persone che mi dicono ma scusa, però non ho capito, ma tu quindi come la pensi su questa cosa che hai scritto? Fattela tu la tua opinione, io ti sto dando delle informazioni, e ovviamente magari ce l'ho un'opinione, però cerco di, oppure a volte non ce l'ho neanche così chiara, oppure un'opinione mobile, cioè no? Quindi anche questo, cioè, sono temi molto in cui bisogna andarci molto cauti. Ad esempio, anche uno dei grossi temi è l'attribuzione degli attacchi, no? Quando si dice chi è che ha fatto questo attacco qui, l'hanno fatto questi, l'hanno fatto i russi, l'hanno fatto gli americani, ma non è così facile, e viene fatta in modo anche molto leggero questo tipo di attribuzione, a volte è anche facile strumentalizzarle queste cose, no? Quindi cioè, potrebbe essere un po' come le armi chimiche, nel senso sì. C'è un ok, abbiamo avuto un attacco, io, se sei stato tu, io lo uso per arrivarti addosso. Comunque volevo dire una cosa, se ci sono domande alzate la mano, potete dirle tranquillamente, anche perché faccio dire la cosa a lei e poi domande. No, io pensavo, perché siccome prima parlavamo di fiducia, no? Fiducia mal riposta, fiducia ben riposta, eccetera, e io credo che in tutto questo magma che stiamo descrivendo, che forse state morendo, non lo so, spaventati, e fate bene peraltro. Però effettivamente secondo me la chiave, o almeno una delle chiavi possibili per orientarsi è quella di tenere sempre saldo il parallelo col mondo reale, perché è un po' una costruzione artificiale quella che il cyberspazio, sono vintage quindi di quel cyberspazio, e il mondo digitale eccetera è un qualcosa di separato, è un qualcosa di diverso che opera con regole diverse. C'è anche una spinta a farci credere questa cosa per varie ragioni, ma in realtà no. Quindi il buon senso che uno attua nell'attraversare la strada deve essere lo stesso che attua nel muoversi poi nel digitale, motivo per cui il solito vecchio discorso si faceva: ma io non è che mi metto a parlare tranquillamente al telefono urlando sul balcone di casa, perché lo so che mi ascoltano tutti, e se devo dire una cosa un po' personale magari non lo faccio. Alla stessa maniera magari sto attento a cosa dico sul web, perché palesemente mi stanno ascoltando tutti. Questo che sembra un'ovvietà, però in realtà ovviamente non lo è, perché poi se no non ci troveremo in questa situazione, però vale molto il buon senso, e quindi le cose, almeno dal mio punto di vista, sono molto intricate, ma poi alla fine di tutto sono molto semplici. Di chi ti puoi fidare? Sono le stesse persone di cui ti puoi fidare in strada, poi alla fine, nel senso, se tu ti fidi, per esempio, mi viene da pensare prima, tra le varie backdoor citate, mi veniva in mente la enorme backdoor Skype. Cioè Skype a un certo punto c'è stato leggenda metropolitana, perché di fatto era una leggenda metropolitana, comunque una credenza condivisa, che comunque andare usare Skype era tendenzialmente sicuro, perché comunque loro cifrano tutto con quei meccanismi che c'hanno loro, e comunque vai tranquillo. E questa cosa, cioè, io me la sono sentita dire da chiunque. Ora, tecnicamente magari a un certo punto della storia di Skype, della storia aziendale di Skype, magari c'è stato un momento in cui effettivamente lo era più sicuro di altri. Poi che è successo? Si è comprato Microsoft, e quindi dopo, tramite Snowden, siamo venuti a sapere, cosa che era abbastanza poi intuibile, che Microsoft ci ha infilato una bella backdoor, per l'appunto una porta d'ingresso dal retro, per cui l'NSA poteva tranquillamente, agevolmente accedere a tutto quello che era il traffico via Skype, no? E quindi tutte le nostre bellissime credenze che ci eravamo fatti, la fiducia che ci eravamo fatti, boom, è crollata. E secondo me purtroppo non è manco crollata, perché magari alcuni ci credono ancora grazie a sta leggenda che era circolata, però anche lì non si tratta tanto di andare a smontare la singola azienda, la singola cosa, e Apple ha detto che però su quella cosa mette la tale, non vi preoccupate, cioè secondo me è una questione che va riportata un po' alle origini, cioè io mi fido di un'azienda che fa sostanzialmente le cose per il proprio tornaconto, perché poi alla fine della fiera, non per semplificare troppo, però anche sì, cioè alla fine Apple non è che sono un branco di educande che ci tengono al fatto che noi comunichiamo l'uno con l'altro, cioè questo penso veramente sia ovvio, no? E quindi si vendono al miglior offerente a seconda di cosa gli conviene. Se in quel momento la nicchia del mercato di quel momento gli conviene, gli fa capire che è conveniente dipingersi come un'azienda più sicura di altre, è chiaro che lo farà, ma se poi domani quello scenario cambia, noi, cioè, se rimaniamo fregati e tritati nella cosa. Quindi secondo me anche lì, ora io non voglio tirare necessariamente acqua al mio mulino, però un po' anche sì, cioè così come se te stai andando a comprare le verdure scrause al supermercato, sai più o meno che cosa ti stai mangiando, cioè lo sai, puoi decidere che vabbè, mi piglio quelle, cioè i concimi chimici e pazienza, che palle, non c'ho soldi, ho deciso che voglio fare quello, va bene. Ok, però lo so cosa sto facendo. Se vado a Mondeggi o da circuito genuino clandestino, mi piglio le verdurine che so da dove arrivano, certificate attraverso un circuito di certificazione biologica autogestita, eccetera, so perché c'è una catena di fiducia dove io sono importante, perché ce l'ho messa io la fiducia e le persone le ho viste, le ho conosciute e mi fido. So cosa sto facendo. Alla stessa maniera non è tanto difficile fare la stessa cosa nel web. E non è una fiducia fatta in termini di prestazione, perché se no veramente non venite su Autistici Inventati, perché facciamo schifo, cioè nel senso, da un punto di vista di sicurezza, cioè io non mi sento di garantirvi niente, mi sento di garantirvi che ad esempio Autistici Inventati spontaneamente i propri dati non li venderà mai. Migliori offerenti del mondo, comunque sia, non ce ne frega niente, soldi non ce ne facciamo, non li vogliamo, anzi ci andiamo sotto, quindi questo ve lo posso dare per sicuro. Quindi tenere questo tipo di parametri secondo me è un buon orientamento. Allo stesso maniera i termini hacker buono, hacker cattivo, black hat, white hat. Cioè, è vero che c'è una galassia incredibile dove bisogna orientarsi, ma poi alla fine vale l'esperienza diretta, secondo me, e la conoscenza anche delle cose che si fanno e che si sperimentano. È chiaro che se si usa il web e la tecnologia in maniera bovina, al massimo leggendo Wired, le cose che ci consiglia, più o meno ci dovremmo attenere a quello che ci hanno raccontato. Ci può star bene, però è un racconto. L'esperienza più diretta, la conoscenza della materia, la conoscenza anche dei personaggi, che ne so, una comunità come quella di HackMeeting, che è una comunità tutto sommato molto aperta, perché fa un evento annuale dove chiunque può andare a vedere e conoscere gli hacker, almeno una parte di essi, italiani, cioè è un modo per conoscere di persona e farsi un'idea, che poi è quello che diceva Carola, cioè anche lì ci va l'esperienza diretta, ci va, e capisco che è molto più difficile, è molto più complicato e complesso, però ragazzi, funziona così. Delegare meno, nel senso, alla fine si riduce lì, giustamente. Domanda? Ma allora io volevo tornare un attimo a, prima si parlava di, appunto, di la questione Apple FBI, che in effetti ci si era un po' dimenticati con la storia lì, e anche insieme alla questione neutralità, ma così come Cambridge Analytica, tutti fatti che mostrano appunto la dicotomia, insomma, il fatto che il dibattito su queste cose è schiacciato su questi due colossi, stato, diciamo, o almeno organi governativi, perché poi c'è anche il caso dell'Europa, insomma, e contro, diciamo, piattaforme nel quale il dibattito viene schiacciato, viene e allora mi veniva in mente, anche prima ragionando, anche parlando, eravamo al Salone di Torino, che ragionavamo anche già di queste cose, è un dibattito organizzato da alcuni di Torino, insomma. E c'era Corrado Melluso di Notte, di Nero, che insomma quindi è una casa editrice, e diceva che tipo parlava della GDPR, no? Quindi l'introduzione, diciamo, che un po' per risposta è stata introdotta alcune policy più restrittive sulla gestione della privacy di chi ha i dati di eventuali utenti o clienti, e che comunque sono sempre precauzioni che appiattiscono, diciamo, tutti i possibili soggetti che rientrano in quella categoria, che è quella, diciamo, con cui lo Stato o il governo si interfaccia nel momento in cui vuole dimostrare alla fine pubblicamente di avere il polso sotto controllo, la questione sotto controllo. E diceva che appunto anche una piccola casa editrice si trova schiacciata dalla precauzione presa, in quanto ad esempio è sottoposto a maggiori restrizioni per quanto riguarda la gestione dei nomi degli abbonati, e questo comporta, nel caso si voglia appunto ritornare a norma, spese, tempo e tutto. Allora mi chiedevo un po' appunto come anche la GDPR è stata un po' recepita in generale anche da varie, anche dal punto di vista dell'informazione, penso appunto ad esempio come il mondo dell'informazione, nel senso di strutture dell'informazione e del mondo editoriale, possono avere impattato con questa cosa, o ad esempio come una realtà, un'attività come quella di una gestione della casella mail autogestita, se eventualmente avete avuto, o se in casi simili, diciamo, questo impatto con precauzioni prese apparentemente nei confronti delle grandi colossi, che però si scaricano anche, diciamo, sulla gestione dei dati, diciamo, di piccole attività o comunque o addirittura servizi autogestiti, ecco. Non so se GDPR vi dice a tutti qualcosa, perché mi dà l'idea di no, ecco. Cioè, nel senso che questo regolamento sulla privacy, questo nuovo regolamento sulla privacy che è stato fatto dall'Europa e che, diciamo, di fatto entra in vigore nel 25 maggio, ora, tra poco, e che ha creato panico in un sacco di aziende. Il motivo per cui state ricevendo un sacco di notifiche via mail, gente che vi dice servizi di cui non vi ricordavate neanche di essere, a cui è, diciamo, di esservi iscritti, che vi dicono: ehi, senti, devi cliccare qua per continuare a ricevere la nostra importante newsletter di cui non te ne fregava niente. Ecco, cose di questo tipo. Questa è la GDPR, perché ha introdotto tutta una serie di norme, in teoria, che dovrebbero difendere di più la privacy degli utenti. In teoria i due concetti principali sono che devi avere il consenso delle persone per prendere i dati e che i dati devono essere portabili. La portabilità dei dati, ad esempio, è molto importante, cioè devi poterti portare fuori via i tuoi dati da una piattaforma e non che te li intrappola lì e quindi puoi portarteli via e farci quello che vuoi, portarli su un'altra piattaforma, eccetera. Vabbè, niente, questo era solo per, secondo me, andava detto. La risposta mia è molto facile, nel senso che no, non ce ne frega niente, perché noi i dati non ce li abbiamo. Cioè, Autistici Inventati nasce proprio per... abbiamo costruito le cose da sempre, da quando siamo nati, per far sì che noi non li abbiamo i dati dei nostri utenti. Quindi non è che noi li tuteliamo, nel senso che li abbiamo ma li tuteliamo, non li diciamo a terzi, eccetera, come invece succede per le aziende medie, piccole anche. Noi proprio non ce l'abbiamo, quindi i famosi log, che sono i diari, non so, c'è mille modi fantasiosi con cui raccontare cosa vuol dire log, comunque tutto quello che fate sui nostri servizi di Autistici, al momento in cui siete dentro Autistici perlomeno, noi non ne teniamo traccia, buttiamo tutto e non ce l'abbiamo proprio. Motivo per cui quando ci chiedono, quando le autorità ci chiedono di, per esempio, collegare una casella mail a una persona fisica, noi non siamo proprio in grado di farlo, e ce lo chiedono, va sicuro, tanto, e non, proprio non possiamo. Quindi questo tipo di leggi sono interessanti, cioè, a mio parere sono interessanti quanto sono interessanti tutte le altre leggi, quindi zero, però possono avere un interesse, nel senso, su organismi, enti che commerciano di queste cose o comunque le utilizzano, perché per esempio la piccola, cioè non è che ci sono i colossi, la piccola casa editrice per esempio ha interesse a raccogliere i dati dei propri lettori o dei propri interessati per poi mandargli comunque delle pubblicità mirate, perché poi che loro facciano a fin di bene o perché sono più etici di Google sicuramente, però gli mandano della pubblicità mirata. La newsletter che tu mandi al tuo pubblico per dirti che è uscito un nuovo libro è ok, però sì, comunque è spam, cioè, o comunque è pubblicità mirata. E non voglio entrare nel merito se questo sia positivo o negativo, però lo è, cioè oggettivamente è una pubblicità. Quindi questo tipo di leggi, questo tipo di interventi interessa questo scopo, cioè chi ha comunque questo scopo. Noi siamo proprio da un'altra parte, nel senso che noi non ce ne frega proprio niente, cioè quello che ci interessa a noi è il fatto che le persone comunichino tra di loro e che lo facciano in maniera riservata, tranquilla e senza troppe ansie e al di fuori di qualsiasi logica commerciale. Quindi sì, noi siamo più o meno, è come dire, non lo so, fanno una nuova legge sugli impianti elettrici e la polveriera se ne dovrebbe occupare. Boh, no, nel senso, noi siamo un po' molto fuori legge, finché non ci faranno una legge sui log e allora saremmo fottuti, ma non lo diciamo a nessuno. Ma comunque secondo me questo tipo regolamento europeo sulla privacy è comunque qualcosa, cioè cerca di chiudere dei buchi nella diga, anche che poi la diga, come dire, resista e non crolli è un altro discorso, però quantomeno è un tentativo di andare in una direzione un po' diversa rispetto a quella che è stata fatta fino agli ultimi anni, poi è riuscito o meno, però il tentativo c'è stato da parte dell'Europa. In questo forse bisognerebbe anche darne atto, secondo me, rispetto, no, all'America, cioè l'Europa ci sta provando un pochino, qualcosa ha provato a fare. È chiaro che appunto, ad esempio, se noi pensiamo, quando dicevi prima lo scandalo dei dati Facebook di cui si è parlato fino a un po' di tempo fa, è quello di Cambridge Analytica, se noi guardiamo come è nato quella roba lì, cioè loro in sostanza fino a prima del 2015 permettevano, se tu usavi ad esempio, davi un consenso a una di quelle app Facebook, potevano, diciamo, non solo accedere a tutta una serie di tue preferenze ma anche a quelle dei tuoi amici. Quindi quello che è successo in quel caso lì è che avete presente, non so se avete mai fatto, se siete su Facebook o comunque, avete mai fatto, ma non solo su Facebook, anche altrove, quei test della personalità. Ecco, i test della personalità, 90 su 100, cioè servono a raccogliere dati fondamentalmente, cioè voi li fate per sapere se siete estroversi, introversi o il vostro lavoro ideale, il nostro... ma di fatto quello è, raccoglie dati, e raccoglie dati anche abbastanza... E quindi in quel caso lì quella era un'app, era un test, diciamo un quiz della personalità che la gente faceva, nel caso non quello famoso di Facebook, che poi l'hanno fatto fare a un tot di, non so, centinaia di migliaia di persone, e poi però oltre a raccogliere i loro dati hanno raccolto anche i dati, in quel caso lì perché Facebook allora lo permetteva di fatto, anche dei loro amici, ok? Ora poi ha smesso, non potevi più raccogliere anche i dati degli amici, ma in questo caso potevi farlo. Quindi hanno moltiplicato, immaginate un grafo che si moltiplica, cioè tu hai questi qua e poi anche tutti i loro amici. Sono arrivati ai famosi 50 milioni di profili, che poi sono diventati 87 milioni, vabbè, insomma non si capisce più con i numeri, è andato ai numeri, comunque diciamo 50 milioni. Quindi è così, hanno, diciamo, profilato in qualche modo 50 milioni di persone in questo modo qui, con un quiz della personalità fatto su Facebook, che tra l'altro in alcuni casi per far convincere le persone a fare questo quiz le hanno anche pagate, perché una parte di questi utenti sono stati, come sono stati trovati in realtà, sono stati trovati attraverso un meccanismo che anche lì sarebbe molto interessante, che si chiama Mechanical Turk, che è un sistema di Amazon, su Amazon, che permette di fare dei lavoretti digitali, cioè tu ti iscrivi e ci sono tutta una serie di lavoretti digitali che la gente può fare, non so, perché le aziende hanno bisogno di micro lavori che si possono fare online, ad esempio, non so, taggare delle foto, hanno bisogno di qualcuno che, no, cose di questo tipo. E quindi pagati chiaramente poco, però sono piccole attività che in teoria, soprattutto in certi paesi, ci tiri, cioè non so come dire, su qualche soldino facendo sto lavoro qua al computer. E quindi e tra le altre cose che c'era anche la richiesta di fare questo test fondamentalmente, no? Quindi si capisce che lì c'era proprio l'interesse anche a investire, cioè a spendere anche dei soldi per raccogliere questi dati, che poi sono stati rivenduti a Cambridge Analytica, che poi non si capisce in realtà neanche cosa ci abbia fatto, probabilmente li ha usati solo a fini di marketing per farsi bella, diciamo, con i politici a cui doveva vendere le sue campagne elettorali, perché poi che fossero in grado di fare quello che dicevano di fare è tutta un'altra questione di maniche, però intanto i dati se li sono presi, ecco, in questo modo qui. E da lì nasce tutto. Quindi questo per dire che sì, appunto, quando si dice chiudere i buchi e le falle anche dei dati, cioè, però la situazione qualche anno fa era probabilmente peggiore di come adesso. Mi dicono siamo un po' in ritardo, quindi se ci sono domande rapide, veloci, qualcuno da chiedere qualcosa? Microfono. No, è perché viene sulla radio, quindi almeno tutti sentono. Vabbè. Sarò breve, non so, siccome mi sono perso un po' la parte iniziale, non so se ne avete già parlato, però spesso al telegiornale riguardo al terrorismo sente spesso dire che insomma, in Italia siamo bravi perché li abbiamo avuti da 40 anni fa. Però, diciamo, secondo me i metodi di comunicazione sono un po' diversi. Quindi volevo chiedere se si sa qualcosa magari dell'intelligence italiana, che cioè, spesso se ne vanta appunto di aver bloccato in anticipo attacchi terroristici. Noi non siamo la Francia, non siamo l'Inghilterra, e quindi volevo chiedere se appunto si sa qualcosa magari a livello di controllo informatico in Italia. Se è già stato trattato il tema, scusatemi. Difficile. È una domanda difficile, nel senso che secondo me, cioè, non c'è un fattore unico per dare, cioè, non si, quando dicono ah, perché noi siamo bravi, non è semplicemente, cioè, ci sono più fattori, possono essere fattori anche di tipo sociologico, sociale, per cui magari ci sono meno casi nel nostro paese per tutta una serie di ragioni che non stiamo, diciamo, a indagare ora. E dal punto di vista investigativo sicuramente l'Italia ha un'esperienza, cioè un antiterrorismo forte dovuto, cioè, una scuola, diciamo, di quindi da quel punto di vista lì può anche essere che ci sia una componente di quel tipo. È anche un paese che intercetta tanto, perché, cioè, non c'è solo, c'è anche la scuola della criminalità organizzata che comunque, diciamo, ha, nel senso, ha prodotto anche tante intercettazioni, tanti tipi di indagine, quindi intercettiamo tanto e usiamo, non ci siamo fatti mai mancare niente, usiamo da anni software spia, Trojan, per infettare i dispositivi, avevamo le nostre aziende, il made in Italy da questo punto di vista, fatte, diciamo, aziende italiane, quindi penso che sia un mix di fattori, ecco, non direi solo uno, ecco. Nulla. Domande? Se no poi vediamo che siamo un po' in ritardo. Eccolo. Ciao, uno al volo sulla Nord Corea. C'è stato quel film The Interview che era stato teoricamente piratato, e però era una questione abbastanza delicata perché, a parte che spoilerava questo gesto di pirateria, la conclusione del film, che era abbastanza esplosiva, e poi dal momento che nella conclusione del film il leader moriva e veniva orribilmente sfigurato in un'esplosione, questa cosa era anche molto pericolosa da un punto di vista iconico per quel che riguarda la reazione dei sudditi o cittadini del Regno Eremita. Quindi mi sono sempre chiesto da quel momento in poi se in questo caso specifico, prima di Trump, prima di queste ultime vicende, se l'avessero pilotata questa cosa, se fosse una strategia di marketing, oppure se i coreani erano davvero interessati spasmodicamente a capire cosa succedeva in questo film, perché avevano il sospetto, che poi in realtà è stato confermato, che il leader ne veniva in qualche modo bistrattato a livello insomma di immagine. Allora, molto interessante questa domanda. Non direi marketing, nel senso che non so se vi ricordate, c'è stato questo attacco informatico a Sony, noto come Sony Hack, che in teoria è stato causato apparentemente da questo film, da The Interview, che era su, in cui Kim Jong-un faceva una brutta fine, no? Quindi c'era stata una. E c'erano questi hacker che avevano attaccato. Non direi marketing perché è stato un attacco veramente brutto, cioè Sony ha veramente subito un attacco pesante, e quindi la vedo dura che com'è? Oddio, no, dici magari manovrato da qualcuno, ho capito, e questo è molto difficile da dire, nel senso che non abbiamo le prove di chi sia stato. Ti posso dire che la tesi del governo americano in questo momento ormai ufficiale è che dietro quell'attacco ci sia stata la Corea del Nord, fondamentalmente. Ed è sicuramente, ci sono tanti studi che ritengono che comunque la Corea del Nord abbia investito comunque in capacità offensive. C'è chi riteneva, aveva dei dubbi che queste capacità fossero particolarmente elevate, ma probabilmente non lo sono particolarmente elevate, però bastano, sono sufficienti per fare danni. Cioè, anche WannaCry è attribuito in questo momento alla Corea del Nord, e WannaCry è quello che dicevamo prima. Il problema è che nell'attribuzione, quando si fanno le attribuzioni, diciamo soprattutto quelle statali, in cui si dice questo attacco qui l'ha fatto fatto questo stato, in genere sono altri stati che lo dicono, no? E il problema qual è? Che non mostrano mai veramente le prove, cioè nel senso non mostrano mai, cioè non ti mostrano mai veramente gli indicatori che, per cui la pistola fumante, per cui dire sì sì, lo possiamo vedere tutti, no? E non te le mostrano in alcuni casi dicendoti che non te le possono mostrare perché mostrartele vorrebbe dire scoprirsi a loro volta, perché farebbero capire a loro volta com'è che sono riusciti, cioè capisci come dire, cioè tutto questo gioco di io non mi posso scoprire più di tanto perché se io ti faccio capire io cosa ho penetrato nel tuo sistema se a mia volta, oppure. E quindi rimane sempre, cioè, il fatto che da un punto di vista anche giornalistico tu non, cioè cosa hai? Hai magari il governo X che dice è stato questo stato. Per cui insomma bisogna sempre un po' capire, però non è implausibile che dopodiché potrebbero essere stati russi, potrebbero essere stati gli americani, potrebbero essere in questo momento, diciamo l'attribuzione diciamo in questo momento è la Corea del Nord per il Soniak, però è chiaro che è un mondo anche fatto di depistaggi. Quando c'è stato l'attacco ai democratici, poi chi forse bisogna americani, no? A un certo punto è sbucato fuori uno che si diceva fosse un hacker rumeno, Guccifer 2.0, e diceva di essere un attivista, no? Quello che aveva bucato le mail dei democratici all'epoca della campagna con Trump, no? Perché si diceva che fossero i russi, e no, poi sbuca questo e dice io sono anche rumeno, un lupo solitario, diciamo, chiamiamolo così. Poi però è stato molto bello perché c'è questo giornalista che gli ha riuscito a chattare con lui e hanno cominciato a parlargli in rumeno, e questo chiaramente gli rispondeva con Google Translate, no? Quindi, vabbè, ok, non era un hacker rumeno, dopodiché chissà chi era. Cioè, il problema è appunto che il depistaggio è all'ordine del giorno in questo mondo. Quindi la cautela come prima cosa. Poi però a volte uno magari si accumulano tanti indizi e quindi in alcuni casi uno può dire ci sono tanti indizi che mi fanno pensare che possano essere stati questi, capisci cosa vuol dire? Magari non hai la prova al 100%, però hai un quadro indiziario. Ecco, funziona un po' così, a quadri indiziari, ecco, non so come dire. Pink, vuoi aggiungere qualcosa? No. Penso che sia arrivato il momento di tagliare e di ringraziare Carola e Pink. Questa è la presentazione appunto del libro Guerre di Rete, Carola Frediani, la terza. È in vendita anche al banchino là fuori a destra e grazie. Tra poco ci sarà un dialogo, non so se c'è già stato Emilio Di Treveri radiopresentazione, comunque qui fra poco si terrà Big Data Individui a partire dalla presentazione di Datacrazia col curatore Daniele Gambetta, eccolo là, insieme a Cometa Neoedizioni con l'autore Gregorio Magini. Grazie, a fra poco.